Capitolo 36. Edmund ormai si credeva perfettamente al corrente di tutto quanto Fanny poteva avere da dire o da lasciar congetturare circa i suoi sentimenti ed era soddisfatto. Tutto dipendeva, come aveva presunto, da una mossa troppo affrettata da parte di Crawford e bisognava dar tempo al tempo affinché l'idea di quel matrimonio le diventasse prima familiare e poi gradita. Doveva abituarsi al fatto che gli era innamorato di lei e dopo qualche tempo avrebbe contraccambiato il suo affetto. Espresse questa convinzione quale risultato della conversazione al padre e raccomandò che non le si dicesse null'altro in proposito, che non vi fossero ulteriori tentativi di influenzarlo o di persuaderla, ma che ogni cosa fosse lasciata alle assiduità di Crawford e alle spontanee riflessioni e conclusioni di lei. Sir Thomas promise di seguire quel consiglio ed era disposto a credere che quanto Edmund diceva dello stato intimo di Fanny fosse esatto. Supponeva che in lei si agitassero tutte quelle sfumature di sentimento, ma non poteva non rammaricarsi che così fosse. Infatti, meno incline del figlio a confidare nel futuro, non poteva non temere che, se così lunghe concessioni di tempo e di assuefazione le erano necessarie, il giovane desistesse dal fare la corte prima che lei si decidesse ad accoglierla appropriatamente. Tuttavia, non vi era altro da fare che sottomettersi in silenzio e sperare che tutto finisse bene. La promessa visita dell'amica, come Edmund chiamava Miss Crawford, costituiva una terribile minaccia per la pace di Fanny, che ne visse in continuo terrore. Sarebbe stata la visita della sorella di lui, così parziale, irritata, così poco scrupolosa nel pesare quanto diceva e vista in altra luce, così trionfante e sicura. Da ogni punto di vista un'esperienza penosa, allarmante. L'irritazione di Miss Crawford e il suo spirito penetrante e il suo compiacimento erano tutte prove terrificanti con cui doveva misurarsi. E la speranza di poter contare sulla presenza di altri quando si fossero incontrate fu l'unico sostegno di Fanny durante l'attesa. Si allontanò il meno possibile dal fianco di Lady Bertram, si tenne lontana dalla stanza a est e non fece passeggiate solitarie nella macchia di arbusti allo scopo di evitare un attacco improvviso. Ebbe successo, ci riuscì. Era al sicuro nella sala della prima colazione con la zia quando Miss Crawford arrivò e, superato il primo momento di intenso disagio, poiché Miss Crawford si comportava e parlava in modo assai meno carico di particolare significato di quanto si fosse aspettata, Fanny incominciò a sperare che non vi sarebbe stato nulla di terribile da sopportare all'infuori di una mezz'ora di moderata agitazione. Ma su questo punto si sbagliava. Miss Crawford non era schiava dell'opportunità, era ben decisa a vedere Fanny da sola e perciò le disse, senza por troppo tempo in mezzo, a bassa voce, «Devo parlarle per alcuni minuti da qualche parte». Parole che Fanny sentì penetrare in tutta se stessa, che si sentì nei polsi e nei nervi, impossibile opporre un diniego. Anzi, le sue abitudini di pronta sottomissione fecero sì che si alzasse quasi automaticamente e la precedesse fuori della stanza. Lo fece con un senso di disperazione, ma era inevitabile. Non appena furono nell'atrio, Miss Crawford mise da parte ogni ritegno. Immediatamente scosse il capo, fissando Fanny con severo eppure affettuoso rimprovero, e prendendole la mano sembrò trattenersi a stento dall'incominciare subito a parlare. Tuttavia non disse altro se non «Ah, cattiva, cattiva, quanto debbo sgridarla!» ed ebbe sufficiente discrezione da tenere in serbo il resto, finché poterono essere sicure di avere intorno quattro pareti, tutte per loro. Fanny si diresse naturalmente al piano di sopra e condusse la sua ospite alla stanza che ora era sempre pronta per essere abitata confortevolmente. Tuttavia aprì la porta col cuore pesante, sentendo che l'attendeva una scena più desolante di quante mai quel luogo avesse già viste. Ma la prova penosa, in serbo per lei, fu perlomeno ritardata dall'improvviso cambiamento di idee di Miss Crawford, dal forte richiamo ad altre sensazioni che suscitò in lei il ritrovarsi nella stanza est. «Ah!» esclamò con improvvisa animazione. «Sono nuovamente qui, la stanza est. Solo una volta in passato sono stata in questa stanza. E dopo una pausa per guardarsi intorno e apparentemente per ricostituire tutto quanto vi si era svolto allora, aggiunse: Solo una volta, ricorda? Venni per provare la mia parte, venne anche suo cugino e facemmo la prova. Lei fu il nostro pubblico e il nostro suggeritore. Una prova deliziosa, non la dimenticherò mai. Eravamo qui, proprio in questo punto della stanza. Lì stava suo cugino, io stavo qui, là stavano le sedie. Oh, perché queste cose devono svanire nel passato? Fortunatamente per la sua compagna non aspettò risposta. Era tutta presa dai suoi pensieri, viveva a occhi aperti un sogno di dolci ricordi. La scena che provammo era talmente speciale, l'argomento talmente, come posso dire? Lui doveva descrivermi e consigliarmi il matrimonio. Mi sembra di vederlo ancora. Tentando di essere contegnoso e riservato come si confaceva ad Anhalt durante le sue due lunghe tirate. Quando due cuori che simpatizzano si incontrano nella condizione matrimoniale, il matrimonio può essere dichiarato fonte di una vita felice. Penso che il tempo non potrà mai cancellare l'impressione che mi fecero la sua voce e la sua espressione mentre pronunciava queste parole. È stato curioso, molto curioso, che noi si sia avuta una simile scena da rappresentare insieme. Se avessi il potere di richiamare una qualsiasi settimana della mia passata esistenza, sarebbe quella settimana, la settimana della recita. Dica quel che vuole, Fanny, sarebbe quella, perché non ho mai conosciuto una così intensa felicità in nessun altro momento. Vedere la sua forte volontà piegarsi come si piegò, oh, è stato un periodo ineffabilmente dolce. Ma, ahimè, quella stessa sera distrusse ogni cosa. Quella stessa sera ricondusse a casa il suo indesideratissimo zio. Povero Sir Thomas, chi fu lieto di vederlo arrivare. Tuttavia, Fanny, non pensi che ora io voglia parlare con poco rispetto di Sir Thomas, anche se allora, è vero, lo detestai per settimane. No, ora gli rendo giustizia. È esattamente quale deve essere il capo di una famiglia come questa. No, seriamente, ora credo di voler bene a tutti voi. E aveva detto ciò con un grado di intensità, con una tenerezza che Fanny non aveva mai prima d'ora riscontrato in lei e che adesso trovava solo troppo significativa. Volse per un attimo il viso, come per riprendersi. Ho vissuto una piccola crisi da quando sono entrata in questa stanza, come può ben vedere, disse quasi subito con un sorriso scherzoso. Ma è passata, perciò sediamoci e mettiamoci comode. Quanto a sgridarla, Fanny, e sono venuta con la piena intenzione di farlo, me ne manca il coraggio ora. E abbracciandola con grande affetto, mia buona, gentile Fanny, se penso che questa è l'ultima volta che la vedo, per non so quanto tempo sento che mi è impossibile fare qualsiasi altra cosa che non sia volerle bene. Fanny era commossa. Non aveva previsto nulla di simile e i suoi sentimenti raramente sapevano sottrarsi alla malinconica influenza delle parole l'ultima volta. Pianse come se volesse bene a Miss Crawford più di quanto effettivamente le era possibile e Miss Crawford, ancora più raddolcita dalla vista di quella commozione, l'abbracciò teneramente dicendo: Detesto l'idea di lasciarla. Non vedrò nessuno che sia così amabile là dove vado. Chi dice che non si diventi sorelle? So che lo diventeremo. Sento che siamo nate per essere imparentate. E queste lacrime mi convincono che anche lei lo sente, cara Fanny. Fanny si riscosse e, rispondendo solo parzialmente a quanto le era detto, disse a sua volta: Ma lei lascia un gruppo di amici solamente per raggiungerne un altro? Lei si reca da un'amica molto intima. Sì, è verissimo. Mrs. Fraser è stata la mia intima amica per anni, ma ora non sento la minima propensione a viverle vicino. Posso pensare solo agli amici che sto per lasciare. La mia eccellente sorella, lei stessa, e i Bertram, tutti quanti. Voi avete talmente più cuore di quanto se ne trovi nel mondo in generale. Tutti mi avete insegnato a fidarmi e a confidare in voi. Cose queste che nelle solite relazioni non si conoscono. Vorrei aver stabilito con Mrs. Fraser di andare da lei più tardi, dopo Pasqua, un periodo assai migliore per una visita, ma adesso non posso rimandare. E quando avrò finito il mio soggiorno da lei, andrò da sua sorella, Lady Stornoway, perché delle due è stata lei la mia più intima amica, ma non mi è importato molto di lei in questi ultimi 3 anni. Dopo questo discorso, le due giovani sedettero alcuni minuti in silenzio, ciascuna pensierosa. Fanny meditando sui vari modi di concepire l'amicizia che vi sono al mondo, Mary su qualcosa di minor contenuto filosofico. Fu lei che nuovamente parlò per prima. Con quanta precisione mi ricordo di come mi risolvetti a salire da lei e di come mi incamminai per trovare la camera est senza avere un'idea di dove mai fosse. Come mi ricordo bene di quel che pensavo mentre venivo su. E come mi affacciai per caso e la vidi seduta a quello stesso tavolino intenta a lavorare, e poi lo sbalordimento di suo cugino quando, nell'aprire la porta, mi trovò in questa stanza e l'arrivo di suo zio quella stessa sera. No, non c'è mai stato nulla di simile. Seguì un'altra breve pausa di astrazione, poi, riscuotendosi, passò all'attacco. Ma Fanny, lei sta addirittura sognando ad occhi aperti. Intenta a pensare, spero, a uno che pensa continuamente a lei. Oh, se potessi trasportarla per un breve periodo nella nostra cerchia in città, per metterla in grado di capire in che modo si giudica là del suo potere su Harry. Oh, l'invidia e il crepacuore di dozzine e dozzine di donne, la meraviglia, l'incredulità che susciterà l'udire quel che lei ha operato, perché in quanto a segretezza Harry è assolutamente l'eroe di un romanzo all'antica e non sa tacere. Si gloria delle sue catene. Lei dovrebbe venire a Londra per sapere come valutare la sua conquista. Se vedesse com'è corteggiato e come ricercano me per amor suo, ormai so benissimo che da Mrs. Fraser non sarò più benvenuta a causa di quello che c'è tra Harry e lei, Fanny. Quando la mia amica verrà a conoscenza della verità, molto probabilmente desidererà sapermi nuovamente nel Northamptonshire, poiché esiste una figlia di primo letto di Mr. Fraser che lei desidera assolutamente vedere sposata. E vuole rifilare a Harry. Oh, fino a che punto ha tentato di accalappiarlo? Lei, Fanny, che siede qui innocente e quieta, non può farsi un'idea della sensazione che cagionerà, della curiosità di conoscerla che nascerà, delle domande senza fine sul suo conto alle quali dovrò rispondere. La povera, povera Margaret Fraser mi tempesterà per aver particolari sui suoi occhi, sui denti e come si acconcia i capelli e da chi si fa fare le scarpe. Desidero che Margaret si sposi per amore della mia povera amica, poiché io considero che i Fraser siano su per giù infelici come la maggior parte delle coppie sposate. Eppure era sembrato un matrimonio desiderabilissimo per Janet. Ne eravamo tutte incantate. Non avrebbe potuto non accettarlo, poiché lui era ricco e lei non aveva niente. Ma ora il marito dà prova di avere un cattivo carattere. È exigeant. E vuole che una giovane donna, una bella giovane donna di 25 anni, dimostri lo stesso suo controllo. E la mia amica non ci sa fare con lui, sembra che non riesca ad adattarsi. Vi è fra loro uno stato di irritazione permanente che, per non dire nulla di peggio, è certamente assai incivile. Nella loro casa ripenserò al rapporto coniugale vissuto alla canonica di Mansfield con rispetto. Perfino il dottor Grant, dimostrando una piena fiducia in mia sorella e una certa considerazione per le sue opinioni, lascia vedere come fra loro ci sia affetto. Ma non vedrò niente del genere dai Fraser. Là, Fanny, penserò con desiderio continuamente a Mansfield. Mia sorella, quale moglie, Sir Thomas Bertram, quale marito, sono ormai le mie unità di misura rispetto alla perfezione. La povera Janet è stata tristemente ingannata, eppure non vi è stato nulla di avventato da parte sua. Non si è precipitata in quel matrimonio sconsideratamente, non è mancata la riflessione. Ha chiesto 3 giorni per considerare la proposta di lui, e durante quei 3 giorni ha chiesto consiglio di chiunque avesse legami di amicizia con lei e meritasse di essere ascoltato con fiducia. In modo particolare si è rivolta alla mia cara defunta zia, la cui esperienza del mondo faceva sì che il suo giudizio fosse generalmente e meritatamente richiesto da tutta la gioventù della sua cerchia. E mia zia è stata decisamente a favore di Mr. Fraser. Questo sta a dimostrare come nulla a priori garantisca la felicità matrimoniale. Non posso dire altrettanto a proposito della mia amica Flora, che ha scartato un simpaticissimo giovanotto del reggimento dei Blues in favore di quell'orrido Lord Stoneway, che ha su per giù tanta intelligenza Fanny quanta ne ha Mr. Ashworth, ma che è di aspetto assai peggiore, con un carattere infernale. Ho avuto i miei dubbi fin dal primo momento. Se Flora avesse ragione nell'accettarlo, perché egli non ha nemmeno l'aspetto di un gentiluomo, e ora sono certa che si è sbagliata. A proposito, Flora Ross era pazza di Harry, l'inverno del suo debutto in società. Ma se dovessi tentare di dirle il nome di tutte le donne che si sono innamorate di lui, non la finirei mai. E lei sola, insensibile, Fanny, è quella che può pensare a lui con qualcosa di simile all'indifferenza. Ma è proprio così insensibile come dichiara d'esserlo? No, no, vedo che non lo è. E in verità, vi era in quel momento un così profondo rossore sul viso di Fanny da giustificare più che una congettura in quel senso, in una mente predisposta a concepirla. Eccellente creatura, non voglio infastidirla. Ogni cosa deve avere il suo corso. Ma cara Fanny, deve ammettere di non essere stata così assolutamente impreparata come lo immagina suo cugino alla richiesta che le è stata fatta. È impossibile che non abbia mai avuto un pensiero in proposito, una qualche congettura su quanto sarebbe potuto avvenire. Deve aver visto che Harry tentava di piacerle dedicandole ogni possibile attenzione. Non è stato tutto dedito a lei durante il ballo. E inoltre, prima del ballo, la collana, oh, lei l'ha accettata proprio come era nelle sue intenzioni. Lei se ne era resa conto perfettamente, me ne ricordo benissimo. Intende dire che suo fratello sapeva della collana fin da prima? Oh, Miss Crawford, non è stato leale. Se lo sapeva, ma è stata tutta un'idea sua, un suo pensiero. Mi vergogno di dirlo, a me non era venuto in mente. Ma sono stata felicissima di aiutarlo nel suo intento, per amore di tutti e due. Non dirò, replicò Fanny, di non aver temuto sul momento che le cose stessero così, poiché vi era una certa espressione nel suo sguardo che mi allarmò. Ma non in principio non ebbi alcun sospetto. Veramente, veramente nessuno. È vero come è vero che sono seduta qui. E se lo avessi avuto, niente avrebbe potuto indurmi ad accettare la collana. In quanto al comportamento di suo fratello, certo mi ero accorta di una particolare attenzione da parte sua. L'avevo notata da un po' di tempo, forse da 2 o 3 settimane, ma pensai che non significasse nulla, pensai che quello fosse semplicemente un suo modo di fare ed ero lontanissima sia dal supporre sia dal desiderare che avesse serie intenzioni nei miei confronti. Non sono stata, Miss Crawford, una distratta osservatrice di quanto si è svolto fra lui e alcuni membri di questa famiglia durante l'estate e l'autunno. Non mi sono intromessa, ma non sono stata cieca. Non ho potuto non vedere che Mr. Crawford si abbandonava a galanterie che non significavano nulla. Ah, non posso negarlo. Di quando in quando si è comportato con troppa leggerezza e si è curato assai poco dello scompiglio che poteva creare negli affetti delle sue fiamme. L'ho spesso rimproverato per questo suo atteggiamento, ma è il suo unico difetto e bisogna dire che assai poche fanciulle hanno una capacità di affetto che meriti di essere presa in considerazione. E inoltre, Fanny, la gloria di conquistare un uomo al quale tante hanno mirato, di avere la possibilità di far pagare lo scotto a chi ha scherzato con il nostro sesso, oh, sono sicura che non è possibile alla natura femminile rifiutare un simile trionfo. Fanny scosse il capo. Non posso pensare bene di un uomo che si faccia gioco dei sentimenti di una qualsiasi donna, e ciò spesso può provocare una sofferenza assai più grande di quanto chi osserva le cose dal di fuori possa giudicare. Non lo difendo, lo lascio interamente alla sua mercé, e quando egli l'avrà condotta con sé a Everingham, non mi importa di quante prediche lei potrà fargli. Ma voglio dirle questo, che questo difetto, il suo prender gusto a far innamorare un poco le ragazze non presenta per la felicità di una moglie neppure la metà dei pericoli che presenterebbe invece la tendenza ad innamorarsi lui con tanta facilità. E a questo non è mai stato incline. E credo seriamente e sinceramente che egli prova per lei ciò che in passato non ha mai provato per nessun'altra donna, che la ama con tutto il cuore e che la amerà, per quanto è possibile, sempre. Penso che Harry sentirà sempre così nei suoi confronti. Fanny non seppe evitare un debole sorriso, ma non trovò nulla da dire. Io non so ricordare, continuò Mary poco dopo, di aver visto Harry più felice di quando ha ottenuto la promozione per suo fratello. E con queste parole ella aveva finalmente toccato i sentimenti di Fanny. Oh, sì, quanto è stato buono! So che deve essersi dato moltissimo da fare perché conosco gli individui che ha dovuto mettere in moto. L'ammiraglio detesta prendersi fastidi e detesta chiedere favori. E ci sono i diritti di tanti giovanotti da essere presi in considerazione a una stessa stregua che amicizia ed energia, quando non sono accompagnate dalla medesima determinazione, vengono facilmente ignorate. Quanto deve essere felice William. Vorrei che lo potessimo vedere. passarono nella mente della povera Fanny sentimenti confusi e contrastanti. Il ricordo di quanto era stato fatto per William era sempre in ogni posizione da lei presa contro Mr. Crawford il più potente agente di disturbo. E ora restò seduta a pensarvi intensamente finché Mary, che prima era rimasta a guardarla con compiacenza e poi si era messa a sognare a occhi aperti su qualcos'altro, attirò all'improvviso la sua attenzione dicendo: «Mi piacerebbe starmene qui seduta a parlare con lei il giorno intero, ma non dobbiamo dimenticare le signore al piano di sotto. Perciò, addio mia cara, mia gentile, mia eccellente Fanny, poiché anche se ufficialmente ci separeremo nella sala da pranzo, devo congedarmi da lei qui e prendo congedo con l'ardente desiderio di una felice riunione e confidando che, quando ci incontreremo di nuovo, sarà in circostanze che possano aprire i nostri cuori l'uno all'altro senza nessuna ombra o riserva. Un abbraccio affettuoso e una certa agitazione nei modi accompagnarono queste parole. Vedrò presto suo cugino in città. Parla di recarvisi da qui a non molto e anche Sir Thomas, a quanto penso, nel corso della primavera. In quanto al maggiore dei suoi cugini, ai Rushworth e Giulia, sono sicura di incontrarli ripetutamente. Vedrò tutti eccetto lei. Devo chiederle due favori, Fanny. Uno è di corrispondere con me, deve scrivermi, e l'altro è di fare spesso visita a Mrs. Grant e compensarla così della mia partenza. Del primo di questi favori, almeno, Fanny avrebbe preferito non essere richiesta, ma le era impossibile rifiutarsi di intrattenere una corrispondenza con Mary. Non le riuscì nemmeno di non acconsentirvi più prontamente di quanto il suo buon senso avrebbe voluto. Non si poteva resistere a tanta dimostrazione di affetto. La sua indole era essenzialmente fatta per corrispondere ad ogni tenera effusione, e avendone incontrate così poche fino a quel momento, fu tanto più facilmente sopraffatta da quella di Miss Crawford. Inoltre, le era grata per aver reso il loro colloquio a due tanto meno penoso di quanto i suoi timori avessero previsto. Era passato ormai, e lei aveva superato la prova senza subire rimproveri e senza tradirsi. Il suo segreto era ancora tutto suo, e finché le cose fossero rimaste tali, pensava di potersi rassegnare a quasi ogni contrarietà. In serata vi fu un'altra presa di congedo. Venne Harry Crawford e fece circolo con loro per un po' di tempo. E quella volta il cuore di Fanny, già predisposto alla commozione, provò per lui un attimo di dolcezza. Crawford sembrava in preda a una sincera emozione e, contrariamente al solito, quasi non disse parola. Era evidentemente oppresso e Fanny non poté non sentire pena per lui, pur sperando di non doverlo incontrare nuovamente finché non fosse il marito di un'altra donna. Quando si giunse al momento della separazione, egli volle prenderle la mano. Non accettò un rifiuto. Tuttavia, non disse nulla o nulla che lei udisse. Quando ebbe lasciato la stanza, Fanny ricordò con piacere quel gesto amichevole scambiato fra loro. E l'indomani i Crawford partirono.